Satana all'inferno per te, ed è più moderno di te. Avremo divani fondi come tombe, stando a quanto dice Baudelaire, Baudelaire, Baudelaire. Pietro brucia in croce per te, santa è la bellezza, tanta è la paura, fai come faceva Baudelaire, Baudelaire, Baudelaire. Pasolini è morto per te, morto a bastonate per te, nello stesso istante qualche altra spiaggia si è fatto l'amore, uniti contro il mondo. Baudelaire, Baudelaire.